proteste sfocino nella violenza e la polizia carica. Addio a Bruxelles, il Consiglio europeo. Fra poco Monti incontra Merkel e Sarkozy per definire il nuovo patto di bilancio. Ora vogliamo vedere i controlli anche nel meridione, dice il presidente della Lombardia Formigoni dopo il doppio blitz a Milano. E al sud i conti non tornano, si spende più di quanto si guadagni. Temperatura impicchiata per il freddo che arriva dal nord. Potremmo avere nei prossimi giorni anche meno 15 ed è in arrivo altra neve. Buona giornata dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. In apertura i fatti di Bologna. All'università la laurea honoris causa al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Fuori dall'Ateneo le proteste di indignati e centri sociali. Ci racconta tutto in diretta Andrea Viali. Sì, si è da poco conclusa all'Università di Bologna la cerimonia con la quale è stata conferita a Napolitano la laurea ad honorem in relazioni internazionali e scienze internazionali e diplomatiche, ma come dicevi a far notizia sono soprattutto le contestazioni subite dal capo dello Stato, protagonisti alcuni giovani dei centri sociali e gli indignati del movimento Occupy Bologna. I due distinti gruppi hanno cercato di raggiungere l'aula magna di Santa Lucia dove era in corso la cerimonia e hanno bersagliato con lanci di uova e rifiuti le forze dell'ordine che hanno reagito caricando in particolare gli indignati. E mentre all'esterno erano in corso questi tafferugli, Napolitano stava tenendo la sua lezione magistrale. Il governo Monti deve andare avanti, ha detto fra l'altro il capo dello Stato, che poi ha fatto anche riferimento alle molte proteste avvenute in questa settimana, molte anche contro l'esecutivo. Sentiamolo. Non intervengo nel merito di alcuna questione politicamente o socialmente controversa. Metto però in guardia contro la pericolosità di reazioni a qualsiasi provvedimento legislativo che vadano ben al di là di richieste di ascolto e confronto e anche di proteste nel rispetto della legalità per sfociare nel ribellismo e in forzature e violenze inammissibili. Questo è il monito del capo dello Stato. Nel corso della cerimonia poi è stato anche ricordato con un minuto di silenzio l'ex presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro, morto nel fine settimana. Per ora è tutto. Grazie ad Andrea Viali. Lo sentivamo dell'omaggio a Scalfaro a Bologna. Fra poco a Roma i funerali dell'ex presidente della Repubblica. In diretta Elisabetta Fiorito. Sì, tra un'ora in Santa Maria in Trastevere i funerali dell'ex Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro. Questa mattina la camera ardente nella chiesa di Sant'Egidio nella stessa piazza a Trastevere con due corazzieri di guardia spiccano fiori e peperoncini rossi sul feretro. Funerali che la famiglia ha voluto strettamente privati, ma molti politici e cittadini comuni che hanno voluto rendere omaggio questa mattina all'ex Capo dello Stato spiccano però le assenze del PDL. Mi disse di non andare nei salotti, ricorda il segretario PD Pierluigi Bersani. Ferdinando Casini confessa, non sempre siamo stati d'accordo, era anche un uomo scomodo ma merita grande rispetto. Nessuna dichiarazione invece da parte dei presidenti di Camera e Senato Fini e Schifani, giunti alla Camera ardenti per primi questa mattina. Presenti anche il segretario CGL Susanna Camusso, il presidente del PD Rosi Bindi, Gianni Letta e Lamberto Dini. Per la NM Scalfaro, ricordiamo, era un ex magistrato, il presidente Luca Paolo Nara, per il quale è stato il difensore dell'autonomia della magistratura. Nel centrodestra per Alfredo Biondi fu un errore di Berlusconi quello di consegnarlo alla sinistra, mentre per il sindaco di Roma Gianni Alemanno contro di lui ci furono polemiche eccessive. Per il momento qui da Roma è tutto, per studio. Grazie ad Elisabetta Fiorito. Ed ora a Bruxelles, dove sta prendendo il via l'attesissimo vertice europeo, il nostro inviato Sergio Nava. Buongiorno da una Bruxelles in versione domenicale sotto la neve semi-paralizzata dallo sciopero generale che ha bloccato la città. I 27 leader arriveranno tra circa un'ora al Justus Lipsus, sede del Consiglio europeo, con un duplice obiettivo: varare il nuovo trattato salva euro e lanciare una strategia per la crescita e l'occupazione. I primi ad arrivare saranno il premier Mario Monti insieme alla francese Sarkozy e alla cancelliera tedesca Merkel, che si incontreranno per un vertice trilaterale. Oggi in agenda l'accordo sul trattato salva euro, cui saranno affiancate misure per il rilancio della crescita e dell'occupazione. Sul primo punto, chiamato Fiscal Compact, si darà il via regole stringenti sui conti pubblici che imporranno deficit strutturali non superiori al mezzo punto annuo, insieme a un programma di rientro per i paesi che, come l'Italia, hanno un debito superiore al 60% del PIL. Resta ancora da trovare l'intesa su nodi minori, quali la partecipazione dei paesi non aderenti all'Eurozona ai summit dell'area euro, né una maggiore flessibilità nell'incorporazione del trattato all'interno degli ordinamenti nazionali, ma il più pare fatto. Le conclusioni del summit danno il via anche a una nuova strategia per la crescita e l'occupazione che, a parte rimescolare impegni già presi, potrebbe attraverso i fondi strutturali riorientare alcune decine di miliardi a favore dell'impiego, soprattutto per i giovani. Per l'Italia si parla di 8 miliardi raddoppiabili attraverso la logica del cofinanziamento. Resta aperto il caso Grecia, su cui la Germania sembra aver ormai perso la pazienza, insieme all'aumento del fondo salva stati su cui Berlino nicchia, ma dopo il varo del trattato potrebbe dover cedere. In apertura di collegamento parlavamo di una Bruxelles paralizzata dallo sciopero, sentiamo. La sortie de la crise ne se fera pas par l'austérité, mais se fera par la relance, par la création d'emploi, par manifestazione fuori dalla sede del Consiglio europeo sotto lo slogan no a un patto di competitività e austerità, sia un patto di solidarietà. Tra le richieste anche l'introduzione dello strumento degli Eurobond. È tutto. Grazie a Sergio Nava. Oggi il Tesoro ha collocato 5,6 miliardi di BTP a 5 e 10 anni. Sentiamo com'è andata con la nostra Deborah Rosciani. Sì, buongiorno. Allora, le aste sono andate bene. I titoli decennali sono stati collocati senza particolari riluttanze da parte degli investitori, con un tasso di rendimento che è sceso al 6,08% dal 6,98% dell'ultima asta di dicembre. Un po' meno vistoso è stato il ribasso del tasso richiesto dal mercato per il BTP a 5 anni, 3 miliardi e mezzo di euro appunto piazzati dal Tesoro italiano, 5,39% contro il precedente 6,47%, per cui il nuovo titolo a 5 anni non brilla, dicono gli operatori, anche se scende ancora il costo del debito. C'è anche da dire che questa è una settimana fitta di appuntamenti per molti paesi europei, per cui gli operatori internazionali si stanno guardando un po' intorno per capire quali saranno le operazioni appunto da presidiare con più attenzione. La Germania, per esempio, mercoledì riapre titoli quinquennali per 5 miliardi di euro e giovedì torneranno sul mercato sia la Francia che la Spagna. Le aste comunque complessivamente possiamo dire che sono andate bene, ma lo spread continua a riprendere, a crescere a 430 punti base negli ultimi minuti, dopo che la settimana scorsa appunto era ritornato sui 400. Pesa naturalmente anche il giudizio di Fitch, che è stato diffuso venerdì a mercati chiusi. Fitch ha abbassato di nuovo il rating italiano insieme a quello di Belgio, Cipro, Slovenia e Spagna. Per l'Italia siamo arrivati a da meno. Una cosa da ricordare per quello che riguarda la borsa, che oggi perde lo 0,8% sulle FTSE MIB. Anche le altre piazze europee perdono in linea, c'è il caso Unipol Fondiaria. Nella sostanza, questa mattina le due aziende hanno comunicato l'accordo di integrazione fra le due compagnie, che già si conosceva, ma cambiano le condizioni, perché in pratica non si passerà più attraverso l'OPA su Premafin Finanziaria, che è la scatola che controlla Fondiaria, e questo a quanto pare è un aspetto che il mercato boccia nettissimamente. Premafin Finanziaria crolla a Piazza Affari del 31% e in più Fondiaria, per fare l'integrazione con Unipol, dovrà fare un aumento di capitale molto più corposo rispetto a quello inizialmente prefissato, sarà di oltre 1 miliardo di euro, e anche questo porta i titoli a scendere nettamente. Per Fondiaria siamo a meno 10%, per ora è tutto. Grazie Deborah Rosciani. Parliamo di tagli alla politica, dell'ennesimo tentativo almeno di tagli alla politica. La revisione delle indennità di presidenza e dei compensi per i portaborse sono due degli argomenti che oggi pomeriggio alle 17 infatti saranno discussi nell'ufficio di Presidenza della Camera. Si parlerà anche delle spese per i viaggi, per le quali Montecitorio si impegna a risparmiare 1 milione di euro e il Senato 500.000. Sugli stipendi dei portaborse Paolo Panceri ha sentito Antonio Mazzocchi del PDL, questore alla Camera. Non si chiama più portaborse, ma si chiama rimborso per la presenza sul territorio da parte dei parlamentari. Per quanto riguarda questo contributo di 3.690 euro, diviso in due, il 50% viene dato forfettariamente al parlamentare, l'altro 50% dovrà essere di volta in volta, attraverso delle pezze d'appoggio, dovrà essere giustificato, sia per quanto riguarda se c'è un portaborse o un assistente parlamentare, sia per quanto riguardano altre spese. Per l'assistente parlamentare rimane ancora facoltativo, ma per un semplice motivo, perché sarà preso l'impegno di predisporre una proposta di legge sulla figura dell'assistente parlamentare come a livello europeo, dandogli una specifica qualifica, un determinato stipendio, con delle garanzie che qualificano maggiormente questa figura, che fino adesso in maniera forse un po' talvolta un po' pesante è stato chiamato portaborse, mentre invece deve essere un assistente parlamentare che abbia determinate qualifiche e anche determinate forme stipendiali che garantiscono la sua professionalità. Io credo che insieme alla Presidenza della Camera debba essere rivista un po' tutti le cariche istituzionali, cominciando anche da noi questori, per cui se, come ritengo, il Presidente farà un taglio alla propria identità, lo dovremo fare anche noi questori, lo dovrà fare non solo, anche agli altri incarichi istituzionali, come Presidente di Commissione e stessi membri dell'Ufficio Presidenza, le posso dire i vicepresidenti. Proseguo il mio cammino, così Don Ennio Stamile, il parroco di Cetraro, paesino in provincia di Cosenza, per due volte in pochi giorni vittima di intimidazioni mafiose. Dopo il danneggiamento dell'automobile, il sacerdote ha ricevuto una testa di maiale mozzata con in bocca un pezzo di stoffa. Vogliono farmi tacere, dice Don Ennio, sotto accusa per le continue prese di posizione contro l'andrangheta. Sentiamolo al microfono di Katia Caramelli. Vorrei mandare un messaggio a queste persone, che è un messaggio di veramente di fraternità. Io non ho nessun rancore contro nessuno, e soprattutto di ripensamento, di conversione. Il danno che lo stanno facendo alla Calabria, una regione che non merita di essere etichettata come una regione capace di fare questo, perché ci sono tantissime persone straordinarie. Non possiamo tacere dinanzi a questi soprusi. Per amore del mio popolo non tacerò, dice il profeta Isaia, e che vorrei anche sottolineare che io non sono un eroe, non mi sento un eroe. Il paradosso è che chi tenta di fare il proprio dovere venga etichettato come eroe. Noi non abbiamo bisogno di eroi, men che meno la Calabria, soprattutto la Calabria. Ha bisogno semplicemente di persone che si sforzano quotidianamente di fare, e non sempre ci riescono purtroppo, ma almeno questo sforzo, questo impegno di fare il proprio dovere. 14 persone arrestate in Campania in un'operazione contro un presunto traffico illecito di rifiuti speciali. Sequestrate aziende per un valore di 8 milioni di euro. I proventi del traffico venivano in parte destinati ad un clan camorristico operante nelle aree del Nolano e del Vesuviano. Sotto sequestro l'impianto di depurazione di Lodi. Avrebbe inquinato un corso d'acqua che attraversa la città e il parco regionale dell'Adda Sud. A carico di alcuni rappresentanti legali della società che gestisce l'impianto si ipotizzano fra l'altro i reati di gestione illecita di rifiuti speciali e carenza autorizzativa di esercizio. Laura Bettini ha sentito Mauro Agnello del nucleo investigativo del Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Lodi. L'indagine è inizialmente partita dal presunto inquinamento di un corso d'acqua superficiale che attraversa la città di Lodi per poi andare a sfociare nel fiume Adda. Quindi l'indagine è partita la storia è questa. E durante il corso delle indagini si è voluto verificare lo stato di funzionamento dell'impianto di depurazione di Lodi, giusto per capire quanto ricettore di questo corso d'acqua, giusto per capire l'influenza dello scarico del depuratore. E da lì c'è stato qualcosa che ha portato alla conclusione di oggi. Quindi adesso il depuratore è stato posto sotto un sequestro preventivo. Sequestro preventivo dal giudice delle indagini preliminari. L'impianto di depurazione, ci terrei a precisare che continua sul suo funzionamento. Il sequestro è stato operato onde evitare la protrazione, diciamo, del malfunzionamento, ecco. Quali conseguenze per l'ambiente ci sono state? Non abbiamo dei dati ancora per dire le conseguenze. Bisognerà effettuare uno studio e verificare dopo anche che cosa può essere successo. A Bologna proteste di indignati e centri sociali alla laurea honoris causa Napolitano, che dice inammissibile che le proteste sfocino nella violenza, e la polizia carica. Al via Bruxelles il Consiglio europeo, fra poco Monti incontrerà Merkel e Sarkozy per definire il nuovo patto di bilancio. E ripartiamo da un tema a noi molto caro, la lotta all'evasione fiscale. Vi abbiamo abbondantemente raccontato nel fine settimana il doppio blitz a Milano, nei locali della Movida e nei negozi del centro. Ora bisogna controllare le regioni del sud, dice il presidente della Lombardia Roberto Formigoni. Sentiamolo al microfono di Alessandro Milan. Parliamo di controlli che stanno avvenendo in varie zone d'Italia, è giusto che questo accada. Appunto, non diamo l'idea che sia un attacco contro la mafia o contro qualcosa di negativo, sono i controlli sul territorio per sanare eventuali irregolarità, ma anche per constatare che altre cose vanno bene, quindi ci attendiamo che avvenga anche in altre zone d'Italia. Finora diciamo che è stato preso di mira soltanto il nord, beh, penso che estenderlo a tutte le regioni d'Italia sarebbe opportuno, anche perché le statistiche dicono ad esempio che in una regione come la mia, nella Lombardia, l'evasione è la più bassa d'Italia, quindi è giusto andare dappertutto, ci attendiamo che vadano dappertutto. Dunque si controlli anche il sud, dice Formigoni, anche perché c'è qualcosa che non funziona se al sud si spende più di quanto si guadagni, come racconta oggi il Sole 24 Ore. Si può vivere spendendo più di quanto si dichiara al fisco? In Italia sì. Nel 2009, ultimo anno per cui sono disponibili i dati, il reddito pro capite è stato di circa 13.000 euro. La spesa monitorata dall'Istat è stata invece di 15.224 euro. Un gap del 17,3% che si è ridotto negli ultimi anni ma che resta la spia di un forte rischio di evasione fiscale. In pratica ogni 100 euro registrati nel modello unico nel 7,30 ne sono stati spesi 117, con punte vicine a 140 in Calabria e Sicilia, come riporta il Sole 24 Ore oggi in edicola. Né in tempi di crisi il ricorso al risparmio basta giustificare la differenza. E c'è un dato ancora più interessante che emerge dal confronto storico con gli ultimi anni. Si riduce la forbice tra il sud, dove il gap diminuisce molto, e il nord, dove in regioni come Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Piemonte addirittura aumenta. La riduzione del divario tra consumi e redditi non dipende solo dall'emersione del nero, ma è dovuta in particolare nel mezzogiorno alla contrazione dei consumi innescata dalla crisi. Anche la ricchezza sommersa, e non solo quella in chiaro, ha pagato il conto della congiuntura. Giovanni Parente, Radio 24, il Sole 24 Ore. Il paese sommerso. Il paese sommerso. Storie di ordinaria evasione fiscale. Da un rapporto della società di ricerche Nomisma si viene a sapere che le commissioni delle 7 principali case d'asta per la vendita di opere d'arte nel 2011 sono risultate in forte aumento, oltre il 21%. Un andamento confortante in decisa controtendenza rispetto alla grande crisi. Il dato però merita un approfondimento, le sorprese non mancano, perché sia il giro d'affari delle case d'asta sia il numero di aste sono risultate invece nel 2011 in netto calo. Come si spiega che le commissioni sono aumentate? Il fattore novità è rappresentato dall'entrata in campo dell'Agenzia delle Entrate, che ha fatto controlli adeguati. Ma nel mondo della compravendita delle opere d'arte non mancano altre sorprese. Un trucchetto abbastanza diffuso è quello che permette ad alcuni imprenditori di far uscire soldi dalla loro azienda e farli entrare esentasse nelle proprie tasche. Basta mettersi d'accordo con una casa d'aste compiacente, vendere alla propria azienda un quadro di proprietà facendo lievitare il prezzo grazie a due persone ingaggiate durante l'asta di fingere di contenderselo. Altre irregolarità riguardano il commercio di opere d'arte effettuato dagli stessi artisti. Un esempio passato abbastanza sotto silenzio ed eccellente è l'evasione fiscale da 81 milioni di euro per commercio di opere d'arte contestata poche settimane fa al pittore americano Cy Twombly, il quale viveva in Italia dagli anni 50. Peccato che la contestazione sia arrivata tardi. Twombly è scomparso nel luglio scorso. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Non si registrano particolari disagi al nord dopo le abbondanti nevicate di ieri. Oggi a Torino le scuole sono comunque rimaste chiuse e i meteorologi avvertono sta per arrivare un freddo siberiano. Daniele Capberro della Società Meteorologica Italiana. Tutta la settimana sarà piuttosto grigia e perturbata su tutta l'Italia, con vari impulsi di aria via via più fredda al nord Europa, che abbasserà le temperature molto al di sotto della norma stagionale. Questo ci stupirà soprattutto perché arriviamo da settimane invece di tepore anomalo che aveva dominato tutta la prima parte dell'inverno. Dopo le nevicate di ieri in Piemonte, domani avremo altre spruzzate di neve che coinvolgeranno non solo il nord ma anche le coste liguri, la Toscana, con neve fino pressoché a livello del mare, e nuove spruzzate potrebbero aversi anche in Valpadana nella giornata di giovedì. Il centro-sud vedrà nevicate lungo tutta la dorsale appenninica nei prossimi giorni, con maltempo che andrà poi concentrandosi anche sulle regioni meridionali, soprattutto nelle giornate di mercoledì e giovedì, con quota neve anche qui molto bassa, fino anche a 200 metri, fin quasi a livello del mare anche sull'Appennino meridionale. E per quanto riguarda il versante tirrenico, mentre invece sul versante adriatico la neve arriverà pressoché anche sulle coste, perfino in Puglia, via via nei prossimi giorni. Mano a mano il freddo andrà intensificandosi, soprattutto al nord, con temperature che, specialmente a partire da venerdì, non è escluso possano anche sfiorare i meno 15 gradi. 10 anni fa veniva ucciso a Cogne il piccolo Samuele, un delitto considerato un po' la madre di tutti i delitti della storia recente. 10 anni dal delitto Cogne, ricordate? Le immagini della casa, le innumerevoli e inutili ricostruzioni dei RIS, gli avvocati, il vicino sospetto, gli occhi persi di Anna Maria Franzoni, il turismo macabro per vedere la casa dove è morto il piccolo Samuele. e poi tutto il resto, perché la vicenda di Cogna, con la sua inesauribile copertura mediatica, è la madre di tutte le altre: Perugia, Garlasco, Avetrana. Con Cogna nasce un genere che si trasforma in reality televisivo, la cosiddetta TV del dolore, con una lunga processione di criminologi, psicologi e tuttologi da un tanto al chilo, che da Buona Domenica a Matrix, passando per Porta a Porta, pontificano di tutto puntata dopo puntata. Il famoso plastico di Vespa diventa il simbolo di un labirinto senza uscita. Ora, 10 anni dopo, quasi nulla è cambiato. E anche se nel 2014 Anna Maria Franzoni potrà chiedere la semilibertà, a Cogne la villetta resta lì, senza i sigilli del sequestro, ma con ancora il cartello vendesi o affitta. Solo intorno è cresciuta qualche altra casa, forse per nascondere, forse per dimenticare. Dario Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Bambini in cura dei medici di famiglia già al compimento del 7° anno. La proposta è delle regioni in vista del nuovo patto per la salute. È sbagliato e pericoloso per la salute dei bambini, sostiene la Società Italiana di Pediatria. Adriana Fracchia ha chiesto un parere a Giacomo Milillo, segretario nazionale della Federazione Nazionale dei Medici di Famiglia. Noi saremmo in teoria favorevoli, perché chiaramente questo porta assistiti al nostro bacino, però bisogna essere onesti e sottolineare alcune cose. L'assistenza pediatrica in Italia ha prodotto molta salute, soprattutto fra 0 e 6 anni. Oggi già i cittadini che vogliono possono far assistere i loro figli dai 6 ai 14 anni dal medico di famiglia. Io credo che più che creare dighe sia opportuno costruire e favorire, incentivare collaborazioni, in modo che i bambini fra i 6 e i 14 anni siano seguiti comunque in qualche modo insieme dal pediatra e dal medico di famiglia in una sorta di passaggio del testimone. Poi indubbiamente è importante che sia protetto l'assistenza pediatrica fra 0 e 6 anni. Dai 7 ai 14 anni è un'età pediatrica in cui può qualche volta essere necessario, in casi di malattie particolarmente gravi, la confluenza dello specialista pediatra, ma per la normale sorveglianza il medico di famiglia è assolutamente competente, in grado di poterlo assistere. E siamo allo sport, ultime battute del mercato con le milanesi protagoniste. Carlo Genta. Buon pomeriggio, di nuovo buongiorno Piera a te e a tutti. Sì, sono i giorni del mercato, inutile nasconderlo, oggi il grande protagonista è questo chiacchiericcio di sottofondo, ma ci sono anche degli affari che sono stati fatti o saranno conclusi. Ai primi appartiene l'acquisto da parte dell'Inter di Guarín, centrocampista colombiano del Porto, a lungo inseguito anche dalla Juventus, l'affare praticamente concluso, ma anche l'ufficialità del deposito del contratto, cosa che avverrà oggi. C'è un movimento anche in uscita per l'Inter con Coutinho, che va in prestito all'Espagnol. Altro centrocampista destinato ad una squadra importante, Nainggolan, anche in questo caso affare vicino alla conclusione con la Juventus. Cerca un centrocampista anche il Milan, perché Merkel, appena arrivato, si è fatto male, starà fuori 2 mesi. I nomi che si fanno sono quelli di Muntari e di Rigoni. Ma domani tornerà, si chiude il mercato domani, ma tornerà anche il calcio giocato, perché c'è un turno infrasettimanale che verrà aperto proprio dalla capolista Juventus. Seconda giornata di ritorno, anticipo di domani sera 20:45, Parma-Juventus, e abbiamo l'arbitro. Arbitri così importanti dalle nostre parti, sarà Mazzoleni di Bergamo a dirigere questo incontro. Le altre partite si giocano mercoledì, c'è anche un big match come Lazio-Milan, che sarà diretta da D'Amato, Inter-Palermo va a Guida, Udinese-Lecce a Doveri, Cagliari-Roma a Romeo. Questi gli arbitri, Piera. Grazie a Carlo Gente. Allora, questo GR24 è stato curato e condotto da Maria Piera Ceci, in regia Paolo Corleoni. Prossimo GR24 alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.